Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Giovedì, secondo spazio settimanale insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ben ritrovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Andiamo idealmente a fare la spesa, è un controllo che voi periodicamente fate in diverse città, questa volta è toccata appunto a Padova. C'è una buona notizia, perché sarà la crisi, sarà che si cambiano le modalità di fare la spesa, di fare gli acquisti, però appunto il carrello della spesa a Padova è meno caro rispetto all'anno scorso. Sì, quest'anno l'Adico ha voluto concentrarsi sulla provincia di Padova e ha voluto stirare quello che è un ipotetico carrello della spesa, completo di carne, frutta, verdura, pesce, eccetera, e verificare rispetto all'anno precedente l'andamento dei prezzi. Un'indagine che l'Adico ha svolto elaborando anche i dati dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero dello Sviluppo Economico, e certamente, come hai anticipato tu, la notizia è stata, diciamo, abbastanza buona per i consumatori, perché il risultato è infatti che rispetto all'anno precedente i prezzi sono calati mediamente del 3,3%. Confrontando ovviamente le cose che normalmente si acquistano per la spesa quotidiana o la spesa settimanale. Sì, allora bisogna dire che noi abbiamo stilato, come ho detto prima, una serie di prodotti. Il costo totale della spesa è uscito quest'anno 167 euro, mentre l'anno scorso era di circa 172. È stata una spesa che tiene conto di un po' quelle che sono le esigenze di una famiglia, e soprattutto bisogna dire che comunque si è registrato delle variazioni sia in positivo che in negativo di alcuni prodotti, però nel complesso la stessa spesa a confronto di luglio 2014 è risultata, come detto, meno cara, per cui un dato che certamente può fare, non dico sorridere, ma dà un piccolo incoraggiamento alle famiglie in questa fase dell'anno. Secondo la regola base dell'economia, quando un prezzo cala vuol dire che c'è meno domanda, ad esempio le cose che magari costavano di più, come la carne, si tende ad abbassare il prezzo perché c'è meno domanda, è così? Guarda amico, analizzando i dati abbiamo riscontrato come alcuni prodotti sono aumentati, per esempio parliamo di riso, pasta, che costano un po' di più, addirittura il 6,8% abbiamo riscontrato come aumento. È cresciuto anche il grano duro e anche il pane, però bisogna dire che si è registrato una diminuzione del costo della carne, del pesce e anche del latte. Per cui, oltre che a un fenomeno di deflazione, bisogna anche considerare quelle che sono un po' le offerte e le strategie che insomma i centri commerciali adottano, e quelle che sono le abitudini che le famiglie rispetto a qualche tempo fa stanno cercando o utilizzano per risparmiare rispetto a prima, che magari andavano ovunque e riempivano il carrello. Quindi chiaramente un assieme di abitudini e di elementi che comunque ha come risultato finale quello di far risparmiare, e quindi insomma anche un 3,3%, ma è sempre un qualcosa. È sempre qualcosa, considerando anche poi che in questi anni, lo abbiamo spesso verificato anche tramite le vostre indagini, sono gli acquirenti stessi che modificano le loro abitudini e cercano davvero le offerte, le occasioni migliori, cercando di non invece fare sconti sulla qualità. Sì, come ho detto, le persone, le famiglie adottano appunto questo genere di strategia. Il proliferare di centri commerciali certamente può dare un significato a questa tecnica, perché chiaramente la pubblicità che arriva ogni giorno, i prodotti in offerta di un tipo rispetto ad un altro, insomma, muovono l'interesse delle famiglie. È anche vero che contestualmente abbiamo in altre puntate trattato come c'è l'abitudine di prendere anche prodotti prossimi alla scadenza per risparmiare, come è anche vero che insomma siamo in una fase in cui si è molto più consapevoli di prima, e quindi questo probabilmente sta anche incentivando a chi propone certi prezzi su scaffali di essere un po' più riguardoso rispetto a qualche anno fa, dove insomma sanno che le famiglie confrontano bene i prezzi e quindi sono molto oculate su quello che devono acquistare. In un'estate, almeno il mese di luglio, in cui però si prevede di aver speso molto di più per quanto riguarda gli impianti di condizionamento, perché ovviamente le temperature hanno fatto salire. In questo senso, il prezzo dell'energia elettrica quest'estate che andamento ha avuto? Anche qui, Mirko, bisogna tenere conto purtroppo di questo, perché le famiglie si dovranno attendere certamente bollette più care rispetto all'anno precedente, perché ricordiamo che l'estate precedente non è stata certamente incentivante come quest'anno per quanto riguarda il caldo, e l'utilizzo del condizionatore sicuramente inciderà maggiormente quest'estate. E bisogna dire che l'andamento dell'energia elettrica ha rispecchiato un po' quello che è l'andamento della benzina e del gasolio alla pompa, per cui per effetto delle oscillazioni siamo un po' una tendenza al ribasso, si parla di circa un 3-5% in meno. Certamente dipenderà molto dall'utilizzo che avranno fatto le famiglie a contenere la bolletta, ma certamente la bolletta andrà ad assorbire quello che sarà il beneficio al carrello. Vediamo allora i conti, sempre li teniamo sott'occhio anche grazie alle indagini dell'Adico. Intanto c'è questa notizia appunto che abbiamo cercato di sviluppare con il calo del prezzo medio del carrello della spesa, almeno nel padovano. Noi ci diamo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre la settimana prossima con altri due argomenti. Grazie al presidente dell'Adico Carlo Garofolini, ricordiamo associazionedifesaconsumatori.it. Grazie Carlo, buona giornata. Io ringrazio te, amico, e saluto tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.